via web. Comunque il caro vecchio telefono è lo 0649 1750. Ricordo naturalmente la possibilità di sottoscrivere per questa realtà che dal lontano 1977 è completamente autogestita. Quindi sul sito della radio si può trovare sia il conto corrente 6180 4001 con i relativi modi di spedirlo, ma anche le modalità più elettroniche con carta di credito, bonifico, eccetera. Velocemente qualche saluto: Maia e Nicololocci dalla Sardegna, quest'ultimo come stigmate, Alberto Clipper, il medico della peste, a Cortina d'Ampezzo Tabula Rasa, Cecilia Miradoli del progetto Pindar, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Laura Spirit Crusher, Jess Gallagher da Catania, Marco Milanesio di Disordine. Valerio Michetti e Ale Trinity Bersiani di Della Grazia Obliqua e Faith to Grace, Marco Gronge, Marcio Gronge, Alessandro Ragazzo, Giulia e Alessandra qui da Roma. E poi Cornelio Basilisco di Humanima, Mariano Virdia in quel di Berlino, Enrico Ponzoni di Sokunshi Butsu Project, Francesco Cornello. Questa sera finiamo il nostro viaggio nell'ultimo lavoro dello svedese Raison d'être. Un doppio molto sviluppato album dal nome Demonium Demoniacum. E questa sera ci andiamo ad ascoltare proprio la traccia che va a chiudere il secondo volume Demoniacum. Una traccia che porta il nome di Binding by Hot. Demonium Demoniacum, dunque, questo doppio lavoro per Peter Anderson, al secolo Rison Detre, uno dei progetti storici per quanto riguarda il Dark Ambient. E la traccia di chiusura, Binding by Hope, sorta di vento sonico, immaginato in un paesaggio spettrale come tradizione di questo artista, che ci ha tenuto compagnia per svariate settimane qui a Prove Tecniche di trasmissione. Intanto si è giunto anche Flavio Derbecante e Arianna Digni Lombardo di Noise Cluster, Like Awake qui a Roma. Un album che secondo me anche si pone a livelli più alti rispetto alle ultime prove, un po' di maniera. In questo doppio lavoro c'è uno sforzo di rinnovare un po' un minimo, di aggiungere un minimo di originalità. E devo dire che l'intento è ben riuscito. Allora, lasciamo Horizon Detre e andiamo alla Drone Island Stellar, ossia la compilation ideata da Raffaele Pezzella attraverso la 8 Tower Records, dove il drone, la dilatazione con le tematiche legate al mondo dell'astrofisica, stelle, pianeti, costellazioni, caratterizzano gran parte dei titoli dei vari artisti che ci sono in questa compilation, artisti italiani e non. Questa sera un artista messicano dal nome Tarme Tial con Blood Moon Prophecy e poi Simon McCorry con Awakening. seguire una traccia più breve di Simon McCorry, Awakening, artista inglese. Anche Simon McCurry ha avuto un forte potere evocativo, anche se la soluzione scelta è più visionaria, con una tromba quasi impazzita. Mi ha anche ricordato il buon Flavio Rivabella per come veniva suonata questa tromba. E questo ricordava invece Simon McCurry con Awakening. E vado a salutare anche Simone Scalese di Audio Chaos, progetto Dark Wave proveniente dalla Calabria. Il fedelissimo Paolo Contucci dal settore Roma Est. Noi invece andiamo nel profondo nord-est e andiamo da Alessandro Ragazzo, artista veneto, che già abbiamo conosciuto con il lavoro precedente qualche mese fa. Ebbene, si ripete con un lavoro forse ancora più cupo del precedente, che porta il nome di Corpore Absence. Massiccio uso di Fields Recording, nastri, e rumorismo vario. Una curiosità rispetto al profilo Bandcamp, io qui ho il CD. Sul profilo Bandcamp la prima traccia che ascolteremo è segnata come 6 minuti e rotti, qui invece me ne segna ben 13, che comunque ci andremo ad ascoltare con piacere. Amore Absence, movimento numero 1. Le increspature ambient, ma soprattutto le evoluzioni in stile noise e di musica concreta, diretta emanazione dell'avanguardia degli anni 60 e 70. Alessandro Ragazzo, proveniente da Marghera. Corpore Absence, che sul profilo Bandcamp è arricchito da considerazioni legate ai ricordi, alle evanescenze, alle assenze, da leggere con un interesse, lo consiglio caldamente. Corpore Absence, che ci ascolteremo anche la prossima settimana. Saluto 25 O'Clock, entrato adesso negli studi qui a San Lorenzo. Stavamo un po' qui questionando il radio di problematiche tecniche. Andiamo avanti, lasciamo dunque Alessandro Ragazzo e Corpore Absence per andarci a sentire invece per l'ultima volta un passaggio riguardante Marcio Gronge e la sua ultima produzione solista, Le obsolescenze programmate. Sono stati 23 quadretti elettronici visionari e di spessore, e questa sera ne rimangono fondamentalmente 3 da andarci a godere insieme. Ossia, l'arte è facile, un finale scontato e distaccato, pressione. Oh, le obsolescenze programmate di Marcio Gronge attraverso la efedrina Netlabel. Netlabel interessantissima, con tante cosine belle da andarsi a cercare, ovviamente attraverso il profilo Bandcamp. Profili anche di jazz d'avanguardia in queste tre tracce di Marcio Gronge, ed è comparsa anche la sua voce a Serara in questo album. Presto avremo nuove notizie del buon Marcio. Intanto andatevi a cercare questo lavoro, scaricabile anche in free download. Sentitelo in cuffia e viaggiate. Abbiamo come al solito molte produzioni italiane qui a Prove Tecniche di trasmissione. Ne abbiamo un'altra che è frutto della collaborazione tra Noise Cluster e Stigmate, peraltro fedeli ascoltatori di questo spazio. Si parla di sonnambulismo in Extreme Sleepwalking. Quindi i drone, i tappeti iperindustriali di Stigmate, arricchiti, robustiti, supportati dall'elettronica pulsante di Noise Cluster. Moving Target e Death Vision Part 1 ho scelto per questa sera.